Letture di Radio 24. Tra l'estate del 1943 e la primavera del 1946, più di 50.000 militari e civili vennero internati nei campi di concentramento allestiti in Italia dagli alleati. Nel suo libro I campi dei vinti, Paolo Leone rievoca la vita quotidiana e le violenze subite in questi luoghi di internamento. Uno di questi era il campo allestito presso l'ex Certosa di Padula, alle porte di Salerno. Per circa un anno, fino all'autunno 1944, Padula arrivò ad ospitare più di 2.500 internati, cinque volte la capienza stimata dalle autorità internazionali di controllo, che furono sistemati in qualche modo in un accampamento di tende. Nel campo non mancavano neppure i bambini, poiché le donne arrestate potevano portare con sé i propri figli, se inferiori a 5 anni. Erano stati predisposti appositi reparti dove accogliere i bimbi, che comunque non potevano essere separati dalla madre. Teoricamente il prigioniero doveva arrivare al campo accompagnato dai militari di scorta, che dovevano consegnarlo al comandante assieme al documento di registrazione dell'arresto, contenente i motivi del fermo, l'indicazione dell'autorità che lo aveva disposto e dell'ufficiale responsabile. In realtà, il più delle volte, il fermo non era motivato da alcuna documentazione. Non era infrequente l'invio al campo per errore, tanto che i comandanti alleati dovettero intervenire spesso per segnalare tali disfunzioni, ma senza esito. Chi era entrato a Padula per errore, soprattutto scambio di persona o omonimie, restava a lungo in detenzione. Il prigioniero non godeva di alcuna protezione giuridica. Il governo italiano era assente e la discrezionalità degli alleati era quindi totale. L'internato finiva per dipendere completamente dalla volontà di chi lo aveva condotto in prigionia. La Certosa era stata costruita per un numero limitato di monaci e la sua struttura non era in grado di poter accogliere i 2.500 internati. Il sovraffollamento determinava l'insufficienza di tutti i servizi. Le latrine erano solo 50, prive di appoggi e separatori. La cucina era insufficiente. L'infermeria, priva dei più elementari sussidi medici. Nel marzo del 1944 intervenne ufficialmente il governo italiano, attraverso una lettera inviata dal ministro dell'Interno, Reale, alla commissione alleata di controllo. Il governo italiano protestò per il modo con il quale venivano trattati i prigionieri civili italiani nei campi di concentramento in Italia e particolarmente a Padula, per il vitto e le condizioni sanitarie e igieniche. La lettera del governo italiano non ebbe ovviamente alcun esito concreto. L'ipotesi di una commissione mista venne considerata non necessaria e non auspicabile, mentre neppure si rispose alla richiesta della lista dei prigionieri. L'unico esito che la denuncia del ministro Reale determinò fu l'avvio di un'indagine interna sul trattamento riservato ai detenuti di Padula. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Paolo Leone, I campi dei vinti, civili e militari nei campi di concentramento alleati in Italia. Edizioni Cantagalli, 200 pagine, 16 euro.